Certi stronzi dicono che il corpo è solo il contenitore dello spirito, sciacquo ferite con lo spirito. Io imbraccio lei come la pietà di Michelangelo. Questo è rap demoniaco, come un rito voodoo. Nel vuoto, come in Keyal, come un gargoyle, ripeto il mio nome tre volte come Beetlejuice. Scheletto Dark salta fuori dall'auto, fumando Kush per strada, non mi frega un cazzo. Tutti quanti che guardano il mio doppio taglio, due ragazze che si baciano l'un l'altra. Banconate rotolate, banconate, io nei monti abbiamo tutto tutto casa. Ho un amico che ha un'amica a cui piace rischiare. Fake fingono proprio quando ti sorrideranno. Devo alzare soldi e spendere soldi tutto l'anno. Doppio C su tutto pantofole, vestagli, diamanti sul mio collo freddi come diamanti. PG, Stephen King, branco di pagliacci. Non vuoi naso come Crafty, stasera il mio pane, allora spezzerò il mio pane. Però ma non vale un cazzo una stretta di mano. Se tanti diffondono la parola di Giuda, sta nella lana del lupo. 5 trappasse in centro, non ho mai visto tutti questi soldi tutti insieme. Come cazzo di vesti sembra che vuoi fare pena. Da uomo non vale un cazzo parola sulle strade. A canna di giudicare, giudica tua madre. Mia madre di certo non ha partorito un infame. Mi piace sparare ste cazzate. Click clack boom, così ti levi dal cazzo.